Buonasera a tutti, inizia Zardis Magnetics, programma che va in onda in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21.30 e andiamo con quella che è la sigla, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines. Questo brano Retribution dei Behind Enemy Lines è la sigla d'inizio di questa trasmissione che è Zardis Magnetics e va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle 21.30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine. E ora andiamo all'ascolto di questo album, uno split, un vinile 12 pollici con due band, entrambe due band italiane, una sono gli Angossa di Verona e una è una band di Brescia con questo strano nome, Slyslack. Sicuramente l'ho detto sbagliatissimo, comunque non capisco, vabbè, sarà una derivazione chissà di di quando, comunque, della zona di Brescia, provo a ripetere, Zajlak. Vabbè, comunque noi, nel dubbio, andiamo ad ascoltarci quelli di Verona che si chiamano gli Angossa, e questo è un album uscito nel 2017. Arrivo. Vai, butai. Ah, fresh. Sì, vai. Dammi in gosso. Aspetta, vai, dopo. Cosa? Idrati. Never mind, solo, there's a uscito, non le vedo, sono salve, che si distrugge. Bene, abbiamo ascoltato questa band di Verona, loro sono gli Angossa, e devo specificare un errore mio di prima, cioè quando ho presentato questa band, che comunque questo qui non è uno split album 12 pollici, ma è un 7 pollici, scusate, e comunque è uscito nel 2017, anche se adesso recentemente questa band ha fatto un proprio album 12 pollici, e comunque è uno split assieme a una band di Brescia che si chiama Slyslack. E ora invece passiamo a questa band inglese, che diciamo band storica dell'anarcopunk inglese, che esordì nell'81-82, ma nell'84 la loro prima uscita discografica fu un album che si chiama In Darkness There Is No Choice, e loro sono gli Antisect, che si sciolsero pochi anni dopo, all'incirca nell'86, per poi riformarsi quasi a distanza di 25 anni, diciamo così, in questo ultimo decennio. Comunque noi ci ascoltiamo questi Antisect dal loro primo album In Darkness There Is No Choice. And all around was darkness like a wall. Thank you. Questa sera a Zardins Magnetics vogliamo presentare una intervista che Elena Sonnini della Università Roma 3 ha fatto a Nicoletta Dosio. E questa lettura si apre con alcune note di Elena Sonnini che vado a leggere. Il 18 maggio ho incontrato Nicoletta Dosio, dice appunto Elena Sonnini, a Bussoleno in Val di Susa. Nicoletta è un'attivista e volto storico del movimento NOTAV. Per il suo impegno in questa lotta è stata condannata insieme a Dana Lauriola a un anno di reclusione. Dana invece è stata condannata a 2 anni di reclusione per i reati di violenza privata, violenza pubblico ufficiale, danneggiamento, blocco stradale, concorso morale. Tali reati, continua Elena Sonnini nella sua premessa, sarebbero stati commessi durante un episodio avvenuto nel 2012, durante un'azione dimostrativa pacifica sull'autostrada Torino-Bardonecchia. Gli attivisti e le attiviste avevano bloccato con il nastro adesivo l'accesso ad alcuni tornelli del casello, facendo passare le auto senza pagare. Nicoletta Dosio ha 76 anni, all'epoca della carcerazione ne aveva 73. Ha passato 3 mesi nell'istituto di pena Lo Russo Cotugno di Torino, da gennaio a marzo 2020. È stata rilasciata prima della fine della condanna per motivi legati alla pandemia da Covid-19. Continua Elena Sonnini per spiegare un po' l'impostazione dell'intervista che poi andrà a condurre con Nicoletta Dosio. L'obiettivo dell'intervista è riflettere sulla sua esperienza di detenzione e non sulla sua vita da militante e sul movimento NOTAV in generale. In continuità con l'intervista rivolta a Susanna Ronconi, ho cercato, dice Elena Sonnini, di ricostruire le caratteristiche e le peculiarità del carcere femminile, invisibilizzato da una trattazione che si concentra sulla detenzione maschile, considerata universale, attraverso la lente della detenzione politica e lo sguardo di chi il carcere l'ha vissuto. Le parole di Nicoletta Dosio raccontano le storie delle sue compagne di detenzione e delle relazioni che si sono instaurate tra di loro e con le agenti del carcere durante l'emergenza Covid, del carcere che non abbandona mai, neanche quando si torna a casa. L'intervistata ci accompagna nella quotidianità della detenzione, volutamente resa inconoscibile perché vive nel mondo libero. Le interviste seguono un percorso volto alla conoscenza del carcere femminile, iniziato con un inquadramento storico e sociologico della punizione e della reclusione delle donne e proseguito con un'analisi sulla contemporaneità sul carcere di oggi. Quindi questi gli aspetti base, insomma, delle interviste che Elena Sonnini ha fatto ad alcune carcerate. In particolare adesso ovviamente leggiamo quella di interesse, che è l'intervista a Nicoletta Dosio. Chiede Elena Sonnini, pone la questione Elena Sonnini, il primo aspetto da sollevare sulla sua esperienza, rivolgendosi appunto a Nicoletta Dosio, alla sua esperienza di detenzione politica, è a mio avviso il fatto che è stata scelta. Ed ecco la risposta di Nicoletta Dosio. Se avessi voluto chiedere le misure alternative, mi sarebbero state concesse, sicuramente. Io ho scelto di andare in carcere per una questione di opposizione al carcere stesso, non perché volevo subire, ma perché volevo che fosse chiaro come la pena che mi era toccata non era diversa da quella che era toccata a tanti altri prima e che ha continuato a colpire tanti altri dopo. Ed era una pena per un'azione giusta. Visto che io sono convinta che contro il potere ingiusto la resistenza sia un diritto e un dovere, Allora volevo rivendicare questo fatto, non volevo chiedere nulla perché non riconoscevo quel sistema che ha messo in carcere me e non solo me. Per cui sono andata. Nessuno pensava che sarebbe successo. Ormai avevo 73 anni. Ecco una domanda appunto di Elena Sonnini. Può raccontarmi l'impatto che ha avuto su di lei l'ingresso in carcere? Risponde Nicoletta Dosio. Non mi aspettavo niente di buono, non avevo paura perché la rabbia c'è stata subito, fin dall'ingresso, perché dopo la foto ti senti espropriata della tua personalità, diventi uno strumento. Non mi hanno trattata male, almeno all'inizio. Entri in un mondo in cui devi fare delle cose senza capirne il senso e quindi ti senti trasformato in un oggetto che può essere preso, manipolato, fotografato, messo lì. La perquisizione è la parte più umiliante perché ti fanno spogliare e faceva freddo. Quando ho detto ho freddo, mi hanno risposto che avevo solo da muovermi. Poi c'è il passaggio dal lei al tu, che non può essere però rivolto a loro. Il tu non è un elemento di amicizia, ma di minorazione. Ti avverte subito che sei una subordinata, che non sei niente, mentre loro hanno tutto il potere nelle loro mani. Chiede Elena Sonnini, mi può descrivere l'esperienza della perquisizione? Ecco Nicoletta Dosio su questo. Ti senti violata e questa sensazione l'ho avuta sempre, perché dopo i colloqui la perquisizione c'è sempre. Ti mettono in una stanza insieme ad altre e ti fanno spogliare. Ti vedi con la tua povera carne di persona anziana, lì esposta, non solo al freddo, ma proprio all'umiliazione di doverti tirare giù le mutande, di doverti tirare su la maglia. Il fatto che ti trattano come un oggetto, poi ti espropriano dei beni personali, per esempio, non mi hanno lasciato portare dentro il cappotto, dicendo che era troppo lungo. Quando ho chiesto il perché, mi hanno risposto: perché lo sappiamo noi. Ci sono delle regole in carcere che non ho mai capito, un'arbitrarietà totale. Com'è stata la prima notte? Ecco un'altra domanda. Mi hanno portata ai nuovi giunti. In carcere non sono mai riuscita a dormire per davvero, perché si passa da un silenzio pesante di notte a un rumore continuo di giorno. Le televisioni sono accese a tutte le ore del giorno e diventa una vera e propria tortura. Dai nuovi giunti la cosa più pesante è che, a differenza della sezione libera, sei dentro 20 ore su 24, chiusa in cella. Inoltre, la sezione dei nuovi giunti è usata come per internare le persone che hanno problemi mentali. Ci sono tanti malati in carcere, ma non solo tossicodipendenti, ma malati di diverso tipo. Fin dalla seconda notte ho iniziato a sentire questo gemito, si sentiva forte, e ho visto una cella con il blindo chiuso. Ho sbirciato dallo spioncino e ho visto questa creatura in cella, nuda, completamente, e faceva freddo, molto, era inizio gennaio. Dentro c'era solo un materasso per terra senza lenzuola, senza coperte. Allora chiedo e mi dicono: a questa non possiamo neanche lasciare un paio di mutandine che si impicca. Quando ho chiesto alla mia compagna di cella, mi ha raccontato che questa donna aveva delle crisi nervose e durante una di queste crisi, una secondina, che veniva chiamata Hitler, anche da alcune sue colleghe, era andata a fermarla. Le aveva messo un ginocchio addosso, l'aveva presa per il collo e la donna ha allungato le braccia e l'ha graffiata. Quindi non era lì solo perché aveva crisi nervose, che poi comunque non dovrebbero essere curate così, ma era lì come punizione. Io passavo tutte le volte e la chiamavo. Alla fine hanno aperto il blindo, lei metteva fuori la mano e io gliela tenevo. Era l'unico modo per poter comunicare con lei. La cura in carcere è la repressione, il controllo attraverso la paura. Non dimenticherò mai quel lamento nella notte. Con la paura, ma sulla strada, senza un cazzo da fare dal mattino alla sera, se non perdersi, perdersi all'infinito, senza nessuna nostalgia, senza mai un rimorso, senza mai guardarsi indietro, a testa in giù, la fame ti pedina per vedere come va a finire. Con la paura, madre di ogni violenza, non si scherza mai, non si scherza mai. Con la paura, madre di ogni violenza, non si scherza mai, non si scherza mai. Si stava meglio in galera che prigionieri della strada, senza un cazzo da fare dal mattino alla sera. Almeno potevi parlare con qualcuno che ti stesse ad ascoltare, qualcuno che mi stesse ad ascoltare. Io l'ho conosciuto in galera, ma che ti frega, che ti frega. Con la paura, madre di ogni violenza, non si scherza, non si scherza mai, non si scherza mai. Con la paura, madre di ogni violenza, non si scherza mai, non si scherza mai. Proseguiamo nella lettura dell'intervista che Elena Sonnini ha fatto a maggio a Nicoletta Dosio, militante Nottav, incarcerata a Torino. Chiede la Sonnini: chi sono le donne in carcere secondo la sua esperienza? In carcere, a parte tre donne che avevano commesso reati di tipo amministrativo, ho incontrato le povere di questo mondo. Sai, ci hanno insegnato lo sdegno contro la gente che ruba il pane, ma io ho imparato che è un delitto non rubare quando si ha fame. Quanta gente era lì per quello? Un giorno, in biblioteca, ho fatto sentire ad altre detenute la canzone «Nella mia ora di libertà» di De André. Loro sono rimaste stupite, perché la canzone racconta qualcosa che loro capivano, in cui si riconoscevano. Il carcere, l'istituzione del carcere, non vuole che le persone detenute sappiano che c'è dell'ingiustizia nella loro reclusione, perché sennò ciò che viene imputato loro, a colpa, diventa un modo per difendersi. Poi c'è l'aspetto della multiculturalità. Ci sono molte donne sinte, molte donne emigrate, nigeriane soprattutto. Loro mi chiamavano zia o mamma perché ero la più anziana. Le donne nigeriane hanno storie simili, partono per l'Europa in cerca di un lavoro, ma non è mai così semplice. Una di loro, per vivere, ha iniziato a fare la corriera di cocaina, ingurgitava gli ovuli e viveva con il rischio quotidiano di morire, perché se ti si spaccano dentro sei finita. Tante di loro non hanno nessuno che le vada a trovare, sono sole. Le ragazze provenienti dal Marocco sono poche. Una di loro mi ha raccontato la sua storia. Ha fatto da palo per il compagno e dei suoi amici durante un furto. Loro sono scappati, lei l'hanno presa. Era incinta. Per un po' è stata all'ICAM, che è l'istituto a custodia attenuata per detenute madri. Poi ha perso il bambino. Sono tante, anche sono le donne tossicodipendenti che vengono curate tra virgolette, con il farmaco. La mia concellina prendeva il metadone da 9 anni, infatti sono tutte senza denti, anche ragazze giovanissime, un po' perché la tossicodipendenza fa perdere i denti, un po' perché non te li aggiustano. Se ti va bene puoi permetterti di comprare una dentiera. Sottolineo un aspetto che viene spesso dimenticato: il carcere non è gratuito, costa 108,6 euro al mese, anche se non mangi niente, se non c'è l'acqua calda, se il bagno non è un bagno ma uno stanzino e se vivi in una cella di 2 metri per 4 metri senza un frigo. D'estate come frigo si usa il bidet. Infatti tante donne soffrono di mal di pancia perché mangiano cibi andati a male. Se vuoi farti lavare gli indumenti devi pagare, senza contare l'abuso di plastica che viene fatto in carcere. Ogni giorno ti danno i piatti, i bicchieri, le posate, tutto di plastica, usa e getta, e l'acqua in bottigliette di plastica che chiaramente pagano i detenuti, per cui si crea un quantitativo enorme di rifiuti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Un servo tempo fa, vince una piazza, brigando a Cristo un croci e ci dicia: Cristo lume pagioni mi trapazza, mi tratta come un cane per la via, si tutto con la sua manazza, manco la vita mia, dici che è mia, distruggi la Gesù, sta Gesù, fallo per mia, fallo per mia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Se tu sei uomo e nu, se te sta pazza, ascolta bene sta sentenza mia, che hai un chiurato, un cruci non saria. Se avessi fatto ciò che dico a Dio, non saria. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni. tira fuori ridenti. A Zardins Magnetics, qui da Radio De Furlane, continuiamo la lettura dell'intervista che Elena Sonnini ha fatto qualche mese fa a Nicoletta Dosio, militante in Ottavi, incarcerata, che è stata incarcerata a Torino per un anno. Chiede Elena Sonnini, chiede, fa una considerazione. Prima ha detto che le donne più giovani la chiamavano zia o mamma. Un aspetto che avevo notato anche io è che le donne in carcere tentano di riprodurre una struttura familiare o comunque un ambiente intimo e casalingo. Dice dunque su questo Nicoletta Dosio: sì, la detenuta più anziana si occupa delle più giovani e le più giovani si occupano delle più anziane. C'è un codice all'interno che è quello della solidarietà, fatta di preoccupazione per l'altra. Le anziane sono rispettate come se vigessero ancora dei codici atavici che il mondo fuori non conosce più. Un'altra caratteristica che ho notato nella sezione aperta è che le donne sfaccendano come in casa. Al mattino, appena sveglie, rifanno i letti, ripuliscono per terra, sistemano. Qualcuno si mette persino il grembiulino, come se fosse in casa. Io non cucinavo, in carcere ho perso l'appetito. Mentre altre preparavano da mangiare, a volte mi portavano qualcosa da assaggiare. C'era un senso della cura, anche delle celle. Tu pensa, in un posto come quello, dove sono proibite le piante e i fiori, le donne costruivano i fiori di carta. Cercavano di trasformare la cella in una piccola casa, mettendo le tendine alle finestre. E non era solo il senso della sudditanza della donna alla casa, c'era qualcosa di più. Il tentativo di personalizzare, di portare del mondo fuori dentro il carcere. L'altra cosa di cui mi sono meravigliata è che quando andavano a colloquio le donne si preparavano con cura, facevano il caffè, lo mettevano nelle bottigliette e portavano delle merendine per offrire ai parenti che venivano a trovarle. Al contrario, quindi, si riproduce il mondo fuori come modo per evadere e per mantenere integra la propria dignità. Quindi è vero che c'è questa volontà di riprodurre il senso di famiglia che c'è fuori. Qui l'intervento di Elena Sonnini è a ricordare una pubblicazione, cioè il libro Recluse, scritto da Susanna Ronconi e Grazia Zuffa, uscito con EDS nel 2020. Dice Elena Sonnini: Ronconi e Zuffa registrano da parte dello staff carcerario e delle agenti in particolare una percezione delle donne detenute di bambine capricciose e invidiose. I modelli sono sempre quelli dell'infantilizzazione e della deresponsabilizzazione. Inoltre, si ripropone quel longevo mito sessista delle donne che non sono in grado di essere amiche tra loro perché troppo invidiose e competitive. Il litigio diventa un bisticcio per motivi futili, a differenza del litigio maschile, considerato un vero e proprio conflitto. Dice Nicoletta Dosio su questo: io dentro non ho mai visto una cosa del genere. Da quello che ho potuto vedere c'è molto senso di solidarietà, la capacità di stare insieme e l'aiuto reciproco. A volte anche un senso di allegria. C'era chi passeggiava, chi andava a trovare le altre, chi veniva a prendere il caffè, chi aveva bisogno di confidarsi. Si creava un senso di quotidianità buona, che non era quella delle guardie, loro si tenevano fuori. La vita andava avanti, al di là della costrizione del carcere. Questo senso di solidarietà non era strumentale, un'ostentazione di generosità, ma un bisogno per sopravvivere. Ho constatato che la solidarietà tra di noi fosse mal vista. Se attira la benevolenza delle altre è visto come un modo per primeggiare, per creare un gruppo che dipende da te e che poi loro, cioè le agenti, non riescono più a gestire. Per le guardie è importante avere il ruolo di mediatrici del conflitto, di risolvere le situazioni e di essere considerate in questo modo. Io cercavo di fare in modo di non coinvolgerle, lo vedevo come un atto politico e di resistenza a quei meccanismi che sono strutturanti della carcerazione. L'intenzione è quella di dividerti. Vorrebbero il 41 bis dappertutto perché ti isola, anche solo psicologicamente. E allo stesso tempo vorrebbero essere gli agenti, le tue confidenti, così da poterti soggiogare. Chiede Sonnini: com'è stato socializzarsi al mondo carcerario? Entrare in quel processo di prigionizzazione, di apprendimento delle regole, formali e informali, estranee al mondo libero? Strano, perché è un altro mondo. Gli agenti si comportano come se svolgessero un lavoro d'ufficio, con la differenza che, a seconda della giornata, qualcuno le regole le usava in un modo e un'altra in un altro. Non ti danno un libretto delle regole, per cui le regole le impari dalle altre. Mi ricordo il primo giorno che ero lì e sono passati a dare le medicine. Mi danno la pastiglia, la prendo, vado verso il tavolo per versarmi un bicchiere d'acqua e iniziano ad urlarmi: «Dove vai?» Anche la mia concellina mi dice preoccupata: «Ma non sai, tu devi presentarti lì davanti con il bicchiere perché la pastiglia la devi prendere davanti a loro». Io non lo sapevo. Successivamente ho capito l'importanza del farmaco, che è fondamentale per tenerti tranquilla. Ti danno tutto quello che vuoi, pur di tenerti tranquilla. Impari dalle altre cosa è lecito e cosa non lo è. Ma è a volte neanche il lecito e l'illecito sono più la stessa cosa, perché a seconda di come gli gira tutto cambia. Inoltre, devi abituarti, o meglio convivere, con i modi degli agenti, con quella rettificazione totale che compiono su di te, sulle donne detenute. Ti trattano come un pezzo della catena di montaggio e sono loro che ti fanno le denunce e tu non puoi saperlo, lo scopri dopo. È quasi come se avessero la divisa anche al cervello. Per fare quel lavoro devi convincerti che le persone che hai di fronte se lo meritano, che ci sia della malvagità. Devi convincerti che non hai di fronte delle persone, ma delle cose che devono essere rieducate. Senza contare poi quando sono sboccate, ti danno della puttana in un tono che vuole sembrare amichevole, ma non lo è per niente, e poi se la ridono tra di loro. Le donne nere le chiamano Africa, le donne indiane India, come se non avessero un nome. Trovo interessante che quando lei parla di questa esperienza di detenzione si soffermi poco su di sé, sul suo vissuto più personale e intimo, mentre sembra adotti uno sguardo analitico quasi esterno, come se fosse entrata in carcere per studiare il carcere. Dice Nicoletta Dosio: in parte è vero, volevo sapere com'era e volevo più inconsciamente attrezzarmi per combatterlo. Non può impedirti di vedere e di pensare, e quello che vedevo e pensavo lo scrivevo. Rispetto a questo, le altre detenute all'inizio avevano qualche difficoltà a capire perché io, che potevo avere il domiciliario o addirittura l'affidamento in prova, fossi lì. Non è stato chiaro subito, quando mi hanno arrestata. Più volte la notizia è passata in televisione e alcune mi guardavano male, come se fossi un alieno in quella situazione. In carcere però ho imparato che non bisogna imporsi alle altre e soprattutto non fare prediche. Ci sono cose che io avrei fatto diversamente, ma non puoi permetterti di dirlo. Credo che questo aspetto faccia parte della detenzione politica. Io ero lì, ero una di loro e non ho avuto difficoltà a identificarmi con loro. Ma sei anche altro, la tua storia è diversa. Tuttavia esiste il lato umano, empatico, che consente di immergersi nella relazione, in quei rapporti semplici che si creano. Quando una donna esce e finisce la detenzione, le altre battono le sbarre, ti salutano. È una specie di rito di sorellanza. Sono uscita con un gran senso di colpa, perché quello che ti porti fuori non è gioia, ma malinconia e sofferenza nell'aver lasciato le altre lì dentro. Non sei veramente libera finché qualcuno è lì. Il fatto che stavo uscendo l'ho vissuto come un'ingiustizia. Quel non luogo e quel non tempo continuano ad esistere nonostante tutto. Il carcere ti resta dentro. Non esci mai completamente, perché là qualcuno è rimasto. L'esperienza della carcerazione è stata come si aspettava? Chiede Elena Sonnini e Nicoletta Dosio risponde: il carcere che non mi aspettavo è stato il carcere con il Covid. La televisione è sempre accesa, che ci vomitava addosso le notizie della malattia. Vedevi camion di bar che facevano impressione. A chi era fuori, figurati a noi dentro, che avevamo la sensazione di non poter correre né scappare. Inoltre io ero anziana e vedevo che chi moriva di più erano le persone della mia età. Mi sentivo senza ripari rispetto alla malattia. Non potevo avere il conforto delle persone fuori perché hanno interrotto le visite. Non facevano neanche più spedire i pacchi. Il paradosso vuole che nessuno aveva la mascherina, neanche le guardie, che infatti a un certo punto hanno fatto uno sciopero per questo. Il direttore le aveva vietate, le mascherine, agli agenti perché spaventavano i detenuti. Noi non abbiamo mai saputo i dati reali. Io a volte chiedevo al medico, qualcosa ci diceva, ma solitamente non ci davano notizie. Quindi, appena sentivi una che cominciava a tossire, la gente si spaventava. Senza contare il terrore di non sapere come stavano le persone care fuori. Ero preoccupata per mio marito, che non sta bene. Quindi, a volte, la paura di ricevere brutte notizie mi assaliva. Ci hanno dato una sola telefonata in più alla settimana, quindi due in tutto. Ti rendevi conto che lì dentro non c'erano strumenti di prevenzione di nessun genere. Passavano la pompa col disinfettante nei corridoi, neanche nelle celle. E il disinfettante, come la conegrina, non potevi usarla, usavano il CIF. Avevi l'impressione di essere a braccia alzate senza ripari. Questa chiusura, il fatto che se prima mangiavi male, poi mangiavi anche peggio, perché non ti portavano più nulla da fuori, non potevi avere i cambi di biancheria, quindi dovevi spendere di più, perché spesso la roba sporca prima la mollava i parenti. Quindi chi non aveva soldi stava peggio e poteva sopravvivere solo perché cercavamo di aiutarci reciprocamente. No. La città nera, no. Lei scrive ancora, no. Le vorrei dire, stai attenta che il mondo ti vuole vedere morire. No. Nella cella foderata, no. Lei guarda su un momento, li riconosce ora, ma con le dita lei scrive ancora. Una donna senza casa, senza figli, senza sposo, ma il coraggio nelle mani, è una donna senza guardiani, fa paura. E la testa fa paura per pensare, fa paura e la voglio, fa paura non è amare. Una donna fa paura senza casa, fa paura senza figli, fa paura senza sposo, fa paura col coraggio e la testa morire. No. Ulrike Meinhof, no. Assassinata nella Germania, che salva il dollaro e salva la lira e semina ancora l'acciaio, la morte e la tortura. Una donna senza casa, senza figli, senza sposo, ma il coraggio nelle mani, è una donna senza guardiani, fa paura. E la testa fa paura per pensare, fa paura che la voglio, fa paura. Proseguiamo e andiamo a concludere la lettura di questa intervista che Elena Sonnini ha fatto a Nicoletta Dosio. Secondo lei, perché è così difficile scardinare l'equazione pena uguale carcere? Perché il pensiero abolizionista continua ad essere confinato a uno stato di radicalità sovversiva, nonostante si strutturi su argomentazioni, analisi giuridiche ed epistemologiche fondate e logiche? È la stessa questione dei manicomi. Non è stato facile abolirli, perché comunque il pregiudizio era grande. Il potere utilizza questi luoghi per creare nemici. È un modo per dare vita e mantenere la guerra tra poveri. Si nascondono i veri interessi politici ed economici di un'elite. Allora, piuttosto che puntare sulla giustizia sociale, che sarebbe la vera alternativa al carcere e renderebbe la società più inclusiva e responsabile, si preferisce continuare a trovare il capro espiatorio nel deviante, nel povero, nell'individuo che si ribella al sistema, nel malato mentale, tra chi è diverso. E improduttivo, aggiunge Elena Sonnini. Esatto, dice Nicoletta Dosio, il carcere è l'armadio in cui il potere, lo Stato, il mercato, il capitale nascondono i propri scheletri. Viviamo in un mondo pieno di solitudine, dove uno può morire solo e nessuno se ne accorge. Loro ti creano il posto dove mandare chi si ribella, chi è povero, e la sua povertà tu non la vuoi risolvere perché la vedi funzionale alla tua ricchezza. È l'altra faccia della tua ricchezza. Tutto è competizione, quindi se uno è povero e non ce l'ha fatta, la colpa è sua e di conseguenza è uno da eliminare. È uno che non solo non produce, ma è la zavorra da liberare in mare. C'è una bellissima poesia di Sante Notar Nicola che racconta questo. Sante il carcere l'ha vissuto per più di 30 anni. Era un militante, un compagno e a un certo punto inizia a far parte di un gruppo di rapinatori, la banda Cavallero, che rubava nelle banche per finanziare le iniziative politiche. In carcere si è politicizzato ancora di più. Ha portato avanti molte lotte per migliorare le condizioni di reclusione e in carcere ha scoperto la poesia. E ricordiamo che Sante Notar Nicola è morto pochi mesi prima dell'incontro di Elena Sonnini con Nicoletta Dosio, e cioè a marzo 2021, perché poi a maggio c'è stato l'incontro tra Sonnini e Nicoletta Dosio. Quindi noi concludiamo la lettura di questa intervista molto bella, molto interessante, e leggendo con un minimo di attenzione e passione la poesia di Sante Notar Nicola che Nicoletta Dosio ha, diciamo così, regalato anche a Elena Sonnini a termine della sua intervista. E leggo quindi la poesia di Sante Notar Nicola, che si chiama Tribunale del Popolo. Poesia Tribunale del Popolo, scritta il 13 febbraio 1971 a Volterra. Tribunale del Popolo. Cancelliere, compagni, silenzio, entra la corte. Presidente, introducete l'imputato. Cancelliere, questo tribunale è costituito dai compagni Bruni, meccanico, Gianni, taxista, Rossi, contadino, Paoli, studente, Neri, pensionato, presiede il compagno Bori, tranviere. Accusatore. L'imputato confessato propongo sia interrogato. Presidente. Compagno imputato, perché hai commesso questo reato? Vuoi dirci in cosa abbiamo sbagliato? Thank you. tenuto è come un figlio da educare, finché abbassi per sempre gli occhi della sfida e di un figlio che non riconosce il padre, faremo un morto che non può riconoscere l'omicida. Tornano a casa i secondini piano piano, tornano a casa dai bambini sul divano, dove saranno i mostri della cella, sono rinchiusi in un armadio su una stampella. Scendi giù bella, scendi giù, scendi giù bella, scendi giù, dammi l'ultimo bacio che non tornerò più. Al mattino il primo carceriere trova un cane randagio davanti al suo portone, e mentre veniva sbranato dalla bestiaccia fu sorpreso di vedergli la mia faccia. Nel pomeriggio il secondo picchiatore, il più rude, fu abbattuto uccello migratore di palude, e mentre annegava urlando dentro al fiume mi riconobbe solamente per i segni delle botte sulle mie piume. Scendi giù bella, scendi giù, scendi giù bella, scendi giù, dammi l'ultimo bacio che non tornerò più. Scendi giù bella, scendi giù, scendi giù bella, scendi giù, dammi l'ultimo bacio che non tornerò più. Sentendo la mia voce che gli dava la soluzione, nella notte son venuto sotto casa e ho gridato forte: amore mio, ti chiedo scusa, ma tu non m'hai aperto perché qualcosa è andato storto. E ho capito che non valgono niente le scuse di un morto. Scendi giù bella, scendi giù, scendi giù bella, scendi giù, dammi l'ultimo bacio che non tornerò più. Scendi giù bella, scendi giù, scendi giù bella, scendi giù, dammi l'ultimo bacio che non tornerò più. Ora andiamo all'ascolto di questa band spagnola, esattamente di Barcellona, e loro sono gli Addenda, e questo è il loro 7 pollici datato 2016 che si chiama Esquerdes. Loro sono gli Addenda. Thank you. Questi erano gli Addenda, band spagnola esattamente della zona di Barcellona, e questo era il loro 7 pollici datato 2016, che si chiama Esquerdes. Ricordo che siamo sempre all'ascolto di Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Ora andiamo invece all'ascolto di questi brani. Io anche li ascolterei tutti, sono 6 brani comunque molto brevi, e che sono le tracce praticamente del 7 pollici che uscì nel 1982, che diede, secondo me è proprio stato il primo, comunque vabbè, tra i primissimi dischi autoprodotti in Italia diciamo della nuova ondata punk hardcore in Italia, che e questo era appunto, come ho detto, tra i primi 7 pollici, ed era uno split completamente autoprodotto, ovviamente copertina non esisteva, ma era un groviglio di fotocopie dove c'erano tutti i testi e quant'altro di queste due band, una della zona di Vercelli che erano gli Indigesti e i Wretched di Milano. Fu un disco d'esordio che andò subito a ruba, e anzi tuttora credo sia introvabile, e ovviamente ristampato più volte. Comunque noi ci ascoltiamo i 6 brani degli Indigesti. Oh, yeah. Bene, questi che abbiamo ascoltato erano gli Indigesti, una band della zona di Vercelli e Biella, che i loro esordi furono nel 1981, circa 1982. Bene, comunque noi siamo sempre all'ascolto di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, va in onda fino alle ore 21:30, è iniziata alle ore 20 come ogni giovedì qui dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine. Prima di finire la trasmissione, che mancano comunque ancora circa 5 minuti, volevo ricordare i contatti nostri, se volevate mettervi appunto, contattarci e quant'altro, ed è questa casella di posta elettronica, ed è liberetutti@autistiche.org. ripeto, liberetutti@autistiche.org. questa era la mail per la posta elettronica. Poi, se invece volete scriverci direttamente in modalità cartacea, potete farlo scrivendo all'Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, 34121 Trieste. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, 34121 Trieste. Inoltre, se volete riascoltare questa trasmissione o comunque anche le precedenti degli scorsi giovedì, potete andare sul blog che si chiama zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, ora fino insomma alla fine, almeno insomma questi prossimi minuti, un paio di minuti prima di concludere completamente la trasmissione, ci ascoltiamo uno, forse due brani di questa band torinese. Loro erano gli Anathema Sonic Truth, fecero un solo album, l'unica testimonianza discografica di questa band, che si chiama Silenzio. Era il 1994. Loro sono gli Anathema Sonic Truth. Non sono uomini, sono bestie, sono un gregge di bestie, anzi di pecore, e su questo gregge pennuto e malsano si scagli potente e terribile il mio malefico anatema. Anatema, anatema su di voi. E ovviamente ciao a tutti, al prossimo giovedì. Si prende dall'alto in basso, con questa superiorità, si rivolge del saluto, come per farsi la carità. Chi ti comanda di qui la dice, siete senza macchia, senza paura, e per questo tutti gli altri, per voi sono solo spazzatura. Oh! parole, poi parla di comunità. Dite che ci si deve impegnare per il bene della collettività, ma il vostro senso è persi troppo chiaro, tutti per uno, ognuno per sé. Dunque non vedo che c'è di strano, se anch'io penso a me.